Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Oggi il nostro viaggio nel tempo lampeggia al fluoro di un flusso canalizzatore. Il crononauta solleva la portiera ad ala di falco, imposta la data sul pannello e schiaccia sul pedale fino ad 88 miglia all'ora. Se volete saltare a bordo, il momento è questo. Allacciate le cinture. Inizia Polaroid. È il 1958, girano Cadillac scappottate, i caffè hanno sedili in pelle rossa e jukebox da un quarto di dollaro. Il re del rock, con ciuffo e pantaloni con le frange, ha già cantato l'inno della sua generazione e la sua musica, che parla di chitarre e cazzo, ha già varcato 6.000 km di oceano. In Italia, un ragazzino magro e dinoccolato la sta già cantando per la televisione in bianco e nero. Il suo nome è Adriano. Le parole di un altro, le idee di un altro, le note, i sentimenti ed il successo di un altro. Nell'Italia che non parla inglese, l'America è un sogno che va traslitterato. Alla vigilia del 68, la musica a stelle e strisce deve parlare la nostra lingua. Caterina Caselli. L'amore mi fa molto, molto ridere. Gianni Pettenati. I Dick Dick. Sogno California. L'Equipe 84. Apro gli occhi, ti penso. Ed in mente te. Il successo tradotto diventa successo vero. La storia di una copia si stacca come una costola e diventa genere a sé. Le cover. Musica. 1992. Freddy è andato da un anno, spento dall'AIDS come una sigaretta sotto un tacco. Ma l'Inghilterra non dimentica le sue regine, quella di Buckingham e quella di Wembley. Sul palco del Tempio del Calcio, per ricordare al mondo chi e che cosa è andato perso per sempre, sale l'unica voce in grado di sfiorarlo. E vuole qualcuno da amare.

Ma Phil Collins sa che nulla è perduto. Basta solo ficcare la sua canzone in una gola un po' più potente, tipo quella di Mariah Carey. Ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Oggi a Polaroid parliamo delle cover, solo su Radio 105. E in questo caso la cover l'ha fatta Björk. It's oh so still. You crush your heart and hope to die till it's over, and then shh, it's nice and quiet, but soon again starts another. riot. You blow. Contemporaneamente, in Italia, Marina Rey cantava un remake del brano del 1976 You to me are everything, dei The Real Thing. Il titolo italiano è Primavera. viaggio di Polaroid nella storia delle cover. La prossima tappa è nel 1981, anno in cui i Soft Cell portarono alla ribalta un brano del 1964 di Gloria Jones, Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. Fa. Com'è possibile che riesca a piegarsi in avanti di 60 gradi senza cadere? Nessuno può vincere la gravità, nemmeno lui. Si inclina in avanti a formare una V, fuori dal suo baricentro, con quel cazzo di cappello bianco e la bocca a culo di gallina. Ma questa non è l'unica magia di Jaco. Il suo smooth criminal, a comando, può diventare ancora più rock. She was struck down, it was her doom. Nel frattempo, in Italia, una giovane Elisa incideva un brano per la colonna sonora di Ricordati di me, di Gabriele Muccino. Si tratta di una cover di una canzone portata al successo da Mia Martini nel 1989, che si intitola Almeno tu nell'universo. Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Della musica si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Oggi a Polaroid parliamo delle cover, solo su Radio 105. 2003, la vedova nera è Gwen Stefani, catturata, processata e condannata a morte. I suoi capelli biondi si stagliano sulla tuta arancione da detenuta, mentre urla con tutto il fiato che ha in corpo che quella è la sua vita e nessuno gliela può strappare. Il successo dei No Doubt è compiuto, anche se la canzone è un B-side dei Toto. Il cantautore napoletano Alessio Caraturo pubblicava una cover della storica sigla di un cartone animato andato in onda per la prima volta in Italia nel 1978, Goldrake. Vai contro i mostri lanciati da Vega. Vai che il tuo cuore nessuno lo piega. Sto tranquillo se ci sei tu. Mille armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei, sei con noi. Che Actarus c'è, che combatte con te dentro te. C'è sul radar la flotta di Vega. Vai. 2018. Solo alcune canzoni godono del privilegio di diventare un cult. Quando questo accade, che tu sia un paroliere sconosciuto o un lord britannico, il brano smette di essere tuo e diventa patrimonio dell'umanità. Così il testo d'amore, con il titolo più personale di sempre, la tua canzone, può tramutarsi in un sentimento globale dove quel tu assume le sembianze di chi desideriamo. O almeno così la pensa Lady Gaga. And you can tell everybody, this is your song. But now that it's done. Nel frattempo, in Italia, una delle voci più belle della musica italiana, quella di Giorgia, ricantava un brano di Jovanotti, Le tasche piene di sassi. Volano le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere. Giorgia ha le tasche piene di sassi, quelli di Jovanotti. Noi abbiamo le orecchie piene di lei e dunque non serve altro. Chiudiamo l'album delle istantanee al prossimo scatto di Polaroid. Polaroid, istantanee di storia della musica, torna sabato prossimo. Sabato prossimo. Alle 19. Su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Lisei. Voce Lucilla. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Antonai. Per altre repliche e altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot.